come diceva Jacopo, l'intervento del caso S che faccio io oggi è appunto una riflessione che noi abbiamo avviato come caso S, come collettivo caso S, perché veniamo a contatto con il nostro progetto, siamo venuti a contatto con questo tipo di mondo, con questo tipo di discorsi e ci siamo posti una serie di problemi, ecco. Quindi fondamentalmente quello che noi cercheremo di fare oggi presentandovi queste tre realtà di gruppi che cercano di fare un tipo di storia collaborativa e molto divulgativa è appunto un inizio di discussione intorno ad alcuni temi che fanno parte della nostra riflessione più teorica, diciamo, su quello che poi facciamo. Noi fondamentalmente, noi di Bologna, noi del caso S di Bologna, facciamo un blog che si propone di fare della divulgazione storica, fondamentalmente, ad un livello che è ancora di studenti dell'università, di studenti della magistrale, e che prova però prova appunto a fare quella che si chiamerebbe public history, fondamentalmente. E quindi l'idea era non proporvi dei pezzi di ricerche di cui peraltro non siamo assolutamente in grado di proporveli, ma appunto di aprire una discussione con chi da altri punti di vista, intorno anche all'esperienza della rivista Zapruder, si è posto questo tipo di problema, come appunto far, con una metafora, come far uscire, oggi si era parlato appunto di Torre d'Avorio, come far uscire alcuni discorsi che noi tutti, credo, riteniamo importanti e interessanti, non semplicemente dal punto di vista dello studioso, di chi si mette a studiare la storia, ma alcuni tipi di analisi, alcuni tipi di riflessioni che ci sembrano rivestire, avere un valore sociale, fondamentalmente. E quindi, ecco, poi noi facendo un blog, il nostro punto di vista, i nostri problemi, diciamo, i nostri nodi che stiamo affrontando, che stiamo iniziando ad affrontare e che qui vogliamo porre alla discussione più larga, sono proprio i problemi che vengono fuori quando gli storici iniziano ad utilizzare tutta una serie di tecnologie come sono quelle del web, fondamentalmente. E quindi, diciamo, è un tipo di riflessione che ci viene fuori dall'idea della cosiddetta storiografia digitale. Che cosa significa, che tipo di problemi nuovi fa venir fuori e quali sono alcuni tipi di risposte che possiamo iniziare a dare e quali sono eventualmente i cambiamenti in corso. E tutto questo appunto abbiamo pensato di farlo mettendo nel dibattito tre esperienze collettive come la nostra, come quella di Equip e come quella dei Lapsus, e un tipo di ricerca che fa Michele sulle fonti digitali, quindi prendendo anche questo lato di che tipo di fonti abbiamo e che differenza c'è nelle fonti, quindi dal punto di vista della ricerca, quando ci mettiamo a far storia con uno strumento come il web. E quindi, ecco, fondamentalmente noi partiamo, la nostra riflessione parte che le scienze umane digitali e la storiografia digitale in particolare sono indirizzi o metodi, se vogliamo, però appunto questo è anche tutto da dibattere, se effettivamente c'è una novità nel metodo, se questo, se l'utilizzo del web, l'utilizzo delle tecnologie digitali cambia il modo di fare ricerca. Comunque mette in campo tutta una serie di novità che ci fanno rimettere in discussione una domanda che è ricorrente, appunto, come diceva Jacopo nell'introduzione, una domanda che è ricorrente, che si pone chiunque faccia storia da un punto di vista di forte divulgazione, che cerchi una grossa divulgazione, che cerchi di intervenire anche nel dibattito contemporaneo e nell'attualità che vive fondamentalmente. E quindi questo tipo di domande che appunto dicevamo sono ricorrenti, vengono noi appunto nella preparazione di questo intervento, che è stata una preparazione collettiva, ci siamo imbattuti nella cosiddetta public history e nella nascita alla metà degli anni 70 di questo movimento, che fondamentalmente si pone un problema di ridefinizione del ruolo dello storico all'interno della società. E che tipo di ruolo effettivamente il sapere storico e chi si occupa di storia può assumere all'interno della società che vive. E quindi fondamentalmente, e poi dal nostro punto di vista abbiamo collegato questo discorso all'utilizzo di tecnologie digitali, quindi del web, negli ultimi 15-20 anni, ecco, siamo di fronte a un fenomeno piuttosto nuovo, fondamentalmente, su cui si è avviata una riflessione che però non è ancora, non dico compiuta, ma non ha trovato ancora un largo dibattito per il momento. Siamo appunto all'inizio, perché ci troviamo di fronte a delle novità fondamentalmente. Quello che interessa a noi maggiormente nel dibattito di oggi e i punti che vorremmo tirare fuori sono fondamentalmente il fatto che quando già negli anni 90 iniziano a venire fuori tutta una serie di progetti di storiografici che utilizzano il web piuttosto che le monografie, piuttosto che la carta stampata, innanzitutto la prima grossa differenza che ci è sembrato di notare è che non si tratti semplicemente di un cambiamento del supporto, non è semplicemente una monografia messa online. Questo viene dopo, in un certo senso, cronologicamente viene con gli ebook, è una cosa che è molto più recente, però fondamentalmente dai primi esperimenti di questo tipo, che praticamente si trattava fondamentalmente di percorsi all'interno di archivi digitali selezionati, diciamo così, o percorsi di digitalizzazione di interi archivi, fondamentalmente la prima cosa che salta all'occhio, la prima differenza grossa, è l'utilizzo dell'ipertesto e di un tipo di scrittura che è diverso, perché presuppone un'interazione leggermente più complessa fra il lettore, chi fruisce dell'opera storiografica, e chi la produce. Se non altro perché il lettore, e questo già dai primissimi progetti degli anni 90, si trova di fronte a molteplici percorsi all'interno di una ricerca storiografica che può percorrere, che ovviamente sono limitati, però sono di più rispetto a un semplice, all'unico percorso che si può percorrere all'interno di una monografia. Poi ovviamente le interpretazioni possono essere molteplici, le letture possono essere molteplici, gli incroci. Però è ovvio che ci sembra, e questo è uno dei primi nodi che vogliamo proporre alla discussione, ci sembra che l'utilizzo di ipertesti cambi leggermente le cose all'interno di una monografia online, di un percorso di storiografia digitale fondamentalmente. E se questo era vero quando, fondamentalmente già dagli anni 90, è probabilmente ancora più verificato con gli ultimi sviluppi che ci sono all'interno della cosiddetta digital history, ovvero digitalizzazione degli archivi, possibilità, maggiore interazione dell'utente X alla costruzione soprattutto di memorie online, quindi banche dati di raccolta di video sulla resistenza o altro tipo di cose, ricerche di storia orale fatte in maniera collaborativa anche attraverso l'utilizzo di video che gli utenti caricano direttamente. Ovviamente sono tutti strumenti di divulgazione storica che presuppongono un tipo di interazione diversa dell'utente e ovviamente sollevano tutta una serie di dubbi anche dal punto di vista storiografico, dal punto di vista di chi fa ricerca storica a livello professionale e si parla appunto tanto di utilizzo pubblico della storia, di confusione fra storiografia e memoria e quindi però ovviamente sono problematiche che ci si presentano soprattutto in questa fase del web che chiamiamo 2.0, che è fatta soprattutto di interazione, di strumenti sul web cosiddetti sociali, che inseriscono tutta una serie di una complessità diversa, secondo noi, all'interno della divulgazione storica tradizionale, classica, come quella che si poteva fare, che si fa ancora ovviamente su una rivista o su una monografia o su una collana particolarmente scritta bene e venduta bene di libri di storia, fondamentalmente. E quindi questo è il primo nodo su cui vorremmo attirare l'attenzione e su cui vorremmo trovare delle risposte, delle problematiche. E quindi l'utilizzo di una complessità diversa. Il secondo nodo, io sarò molto schematico, perché appunto vi portiamo qui una discussione che è in corso all'interno del nostro collettivo, che ha individuato per ora alcuni punti e vuole testarli e capire qual è anche il pensiero e le opinioni e le esperienze di chi di divulgazione di un certo tipo di intervento si sta occupando da un po' più di tempo di noi, ovviamente. E quindi il secondo nodo che abbiamo individuato e che ci sembrava interessante è il fatto che con il web, con l'utilizzo delle tecnologie web, di internet, al fine di costruire dei percorsi storiografici, al fine di costruire sapere storico, quindi ricerca e divulgazione, già dall'inizio abbiamo notato, già dagli anni 90 appunto, non è quasi mai, o almeno gli esempi che abbiamo trovato noi, le esperienze, gli esperimenti che abbiamo preso noi sotto esame, non sono quasi mai risultato di lavori individuali, cioè quasi sempre queste dalla prima monografia online che è un progetto partito nel 93 che si chiama The Valley of Shadow, che parla fa una storia comparativa di due contee degli Stati Uniti durante la guerra civile, fino a mi pare si chiamasse la banca della memoria della resistenza, quello che citavo prima su la raccolta di video interviste quindi di testimonianze orali sulla resistenza. Non ci troviamo mai di fronte a progetti puramente individuali come potrebbe essere una monografia, nella quale tradizionalmente lo studioso, la studiosa mette giù tutta una serie di riferimenti, di ringraziamenti, perché ovviamente si avvale di un giro di collaboratori che però subito al rigo dopo dice solitamente, classica e tradizionalmente dice però la responsabilità rimane tutta mia per qualsiasi altro errore sia rimasto nel testo. Rimane fondamentalmente un testo e un lavoro individuale. Questo con l'utilizzo della storiografia digitale, con lo sviluppo della storiografia digitale, ci sembra che venga un po' meno. E quindi si apre non solo con gli ultimi sviluppi del web e quindi con la possibilità di commentare, di integrare, di coinvolgere il pubblico anche nella produzione di discorso e di dibattito intorno ad alcuni temi, ma già da prima, quando questa possibilità tecnica e la semplicità tecnica di avere strumenti online che ti permettessero un tipo di partecipazione del genere, un tipo di interazione del genere, già da prima si tratta quasi sempre di progetti collettivi che mettono insieme tanti studiosi, tante studiose, diverse istituzioni, spesso lontane fra loro, eccetera, eccetera. Per esempio, uno degli altri esempi che avevamo preso in esame nella discussione era questo Slave Voyages, qualcosa del genere, scusate se non mi ricordo, però che era questo mega progetto di digitalizzazione di tutti o comunque tutte i viaggi all'interno del commercio tricontinentale degli schiavi dal 1512 al 1826 o agli anni 50 dell'Ottocento, addirittura dopo l'abolizione. Quindi un lavoro incredibile che aveva coinvolto, mi pare, un centinaio di studiosi provenienti da tantissime università e istituzioni diverse, e un lavoro di digitalizzazione di ogni viaggio, di ogni nave, carico, il sesso delle persone che erano contenute, il numero, l'età. Poi chi ha studiato la schiavitù magari ci potrà anche dire qualcosa di più su questo progetto, che è ovviamente famosissimo. Però appunto ci siamo resi conto che nella storiografia digitale il lavoro solitario dell'umanista inizia a essere messo in discussione, inizia a venire meno, ha un ruolo sicuramente minore, e invece si trova spazio e vengono fuori tutta una serie di progetti collettivi, collaborativi, ed è anche per questo che noi abbiamo oggi coinvolto due realtà come l'Equipe e l'Apsus, e l'Equipe in particolare ci parlerà di questo, ci parlerà della possibilità di pensare un metodo collettivo, quindi la possibilità di pensare l'Equipe come metodo, se non sbaglio era questa un po' la conclusione del vostro libro. E quindi appunto questo è un altro tema su cui vorremmo riflettere, la collaboratività, il lavoro anche all'interno delle scienze umanistiche, che era una cosa leggermente più rara, di lavori collettivi, di lavori di Equipe, di lavori che si avvalgono di una quantità di persone, di esperienze, di percorsi anche intellettuali molto diversi, per la produzione di un prodotto culturale che è sostanzialmente diverso rispetto alla monografia, che si avvicina a progetti monografici ma con un taglio enciclopedico, se vogliamo. E quindi questo era un altro tema che volevamo sollevare, volevamo portare alla discussione di oggi. E poi dall'altro lato, l'altra parte appunto è la domanda forse più grossa che ci si pone davanti, ovvero se l'utilizzo di questo tipo di tecnologie, anche alla luce dei nuovi indirizzi storiografici che partono dagli anni 60 in poi del secolo scorso, e che quindi sempre più si avvalgono dell'utilizzo di altre discipline, dalla sociologia, all'antropologia, ma penso anche a l'econometria, l'economia e l'econometria, perché uno dei primi impieghi delle tecnologie digitali, dei più vecchi impieghi, è quello del calcolo, fondamentalmente, cosa che prima di tutti hanno fatto i linguisti all'interno del, utilizzando anche i primi calcolatori. Cioè, pare che il primo progetto di Digital Humanity sia appunto questo Roberto Busa, se non sbaglio, un gesuita che nel 49, sì, Roberto Busa, che nel 49 avvia questo progetto di indicizzazione di tutte le parole contenute nell'opera di San Tommaso d'Aquino, tutte, e arriva a collezionare più di 11 milioni di parole in latino medievale, e fa questo super indice completamente utilizzando calcolatori, fondamentalmente. Quindi primo archetipo delle scienze umane digitali. E quindi da lì, anche e soprattutto poi negli anni 60, e pensando ad un ramo che è quello che mi viene in mente adesso, ma possibile che ce ne siano anche altri, quello della storia economica, l'utilizzo di calcoli o della statistica per la storia, l'utilizzo di calcoli anche molto complessi che si avvalgono di calcolatori. E quindi questo appunto per dire quanto, e questa è l'ultima domanda su cui vorremmo riflettere questo pomeriggio, quanto poi l'utilizzo di tecnologie digitali cambia anche il tipo di lavoro che si fa, il tipo di metodo che bisogna applicare e il tipo di fonte che si va ad interrogare. Quindi l'utilizzo delle tecnologie digitali cambia effettivamente lo statuto della fonte, sì o no? Ed è per questo che appunto abbiamo coinvolto Michele, che ci presenta questo suo studio particolare su YouTube e come spazio di costruzione di identità, e quindi ci pone, diciamo così, uno scenario che ci mette di fronte a quel tipo di fonte che gli storici di domani o di dopodomani, non lo so, inizieranno ad utilizzare e dovranno utilizzare per forza di cose per studiare gli ultimi 10 anni, gli ultimi 5 anni, il periodo che noi stiamo attraversando, la fase storica che noi stiamo attraversando. E quindi le fonti, non solo le fonti digitalizzate, che ultimamente, almeno da quello che ci è sembrato a noi negli ultimi mesi, durante la preparazione di questo intervento, siamo stati un pochino dietro a questi progetti che venivano fuori, a noi è sembrato che ci fosse un'esplosione di digitalizzazione di archivi, ma veramente un'esplosione a livello numerico. Ne vengono fuori tantissimi progetti di digitalizzazione di archivi, e questo è un lato, e che ovviamente è diverso rispetto alle fonti che nascono già digitali e che probabilmente ancora non utilizziamo come fonti storiche o stiamo iniziando ad utilizzare come fonti storiche. Quindi ecco, la domanda che ripropongo è: come, alla luce di questi, noi ne abbiamo individuati 3 di nodi, di interrogativi, perché sono le cose che ci sono venute, su cui abbiamo potuto riflettere spinti anche dalla pratica che abbiamo iniziato ad abbozzare, però appunto intorno a questo tipo, a queste prime 3 domande, a questi primi 3 nodi problematici, come alla luce di tutto questo cambia, sta cambiando il ruolo dello storico che vuole intervenire sulla contemporaneità.